La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici, questa è La Rosa Purpurea, l'ora di cinema settimanale di Radio 24. Tutti i sabati insieme per decidere cosa andare a vedere in sala, per consigliarvi i film più o meno imperdibili, insomma, per cercare di farvi da guida nella sala cinematografica. Ma come sempre si gioca insieme, si vincono tanti bei premi, oggi tra l'altro di più del solito, perché è una giornata particolarmente densa di occasioni per i nostri ascoltatori. Anzi, fate una cosa, segnatevi subito il nostro numero di SMS, perché vi servirà parecchio in questa puntata: 349-238-6666. Avremo due giochi per voi, uno che riguarderà un bellissimo spettacolo da andare a vedere, uno invece ancora più prestigioso, un weekend a un festival e una cena di gala. Insomma, state lì che pian pianino accontentiamo tutti, come si fa nei migliori ristoranti. Il nostro menù comincia oggi da un film che arriva dalla Bulgaria, ma che ha avuto grandissimo successo di critica e di pubblico e di premi ovunque. Si intitola Glory e ha per protagonista un orologio. Quanti soldi hanno trovato? Sì, signor ministro, abbiamo un eroe per le mani, dobbiamo approfittarne. Ripeta, non ho avuto alcuna esitazione a chiamare la polizia. Non ho. È chiaramente uno sprovveduto. Lo sprovveduto in realtà è un onesto, fuori tempo in un mondo fatto di scandali. È un ferroviere, un uomo che nelle campagne bulgare cammina lungo i binari per sistemarli all'occorrenza. Diventa un eroe perché trova un giorno un sacco di soldi lungo questi binari e anziché tenerseli, come avrebbero fatto i colleghi, li consegna alla polizia. Al Ministero del Trasporto, travolto da scandali e mazzette, l'addetta alla comunicazione è ben felice di approfittare di lui. Devo prendere il suo orologio, glielo riderò più tardi, non si preoccupi. Le doniamo questo orologio come premio per la sua onestà. Quando ci pagherete gli stipendi? La gente lo adora, su internet ne parlano tutti. Complimenti, capo. Grazie mille. Non è il mio orologio. Sul mio c'è scritto a mio figlio Zacco. Rivuole il suo orologio con le lancette, non quello moderno che smette subito di andare. Solo che al ministero del suo Glory, il titolo del film e la marca dell'orologio, non si è curato nessuno. Se lo sono perso e non hanno intenzione di perdere tempo a cercarlo. Lui invece lo rivuole ed entra nel meccanismo kafkiano della burocrazia, come in quello in cerca di scoop della stampa. Tutti lo sfruttano fin quando fa comodo, poi lo mollano a subire le conseguenze, arrivando ad accusarlo di volere soldi e ricattare il ministro, quando invece sta soltanto chiedendo la restituzione di ciò che è suo. Perché non gli chiedi scusa? Non ho niente di cui scusarmi. Me ne sto occupando, signor ministro. Se non parli, vinceranno loro. Mi hanno tolto l'orologio di mio padre e la dignità. Vuole dei soldi, ma non si vergogna. Non una parola di più, ho detto smettila! Chiedi scusa al ministro e andrà tutto bene. Chi non avesse mai visto un film bulgaro può felicemente cominciare da qui. È da The Lesson che lo ha preceduto ed è degli stessi autori Cristina Grozieva e Peter Valkanov. Raccontano una Bulgaria che è metafora del mondo intero, con l'onestà che resta sempre indietro. Il regista, Peter Valkanov. Siamo partiti dalla realtà. Abbiamo usato elementi realisti come artistici. Il nostro obiettivo era partire da questo ritaglio di giornale che ci ha dato l'idea e creare, sviluppare una sorta di paradosso sociale della situazione contemporanea in Bulgaria, ma non solo. Satira e sarcasmo con modelli universali, c'è chi ha scomodato Frank Capra, ma qui il sottofondo è ancora un po' più amaro. L'onesto, chiunque sia a turno, prende bastonate, anche quando tenta di esserlo la terribile addetta alla comunicazione. La interpreta Margita Gosheva. Ho conosciuto la vera PR del nostro vecchio presidente. È una donna molto bella, perfetta ed estremamente intelligente. Sulla sua scrivania, però, aveva questo premio come il tapiro d'oro e mi è sembrata una perfetta contraddizione nella sua immagine. L'ho trovato di ispirazione per creare questo mostro insieme al generale cinismo del mondo politico. Altro paragone calzante è quello fatto con i fratelli Dardenne. Tragica sciuttezza, come per loro, che qui si vena di tragicommedia. Se ne esce pensando che il lieto fine è fin troppo lontano dalla realtà. Chiara Pizzimenti ci ha raccontato Glory, non c'è tempo per gli onesti, una bella metafora della nostra società, quella che arriva da questa Europa che si sta modificando, si sta occidentalizzando, ma dove evidentemente anche il peggio di certe tradizioni occidentali sta arrivando. Diamo un'occhiata al box office. Sono partiti bene in questi primi giorni del weekend alcuni film che sono arrivati in sala in questo fine settimana, a partire per esempio da Noi siamo tutto, film diciamo così adolescenzial strappalacrime sulla scorta di una serie di altre pellicole degli ultimi anni, che però ha il suo pubblico evidentemente. Alla base c'è come al solito un bestseller molto molto letto. Noi siamo tutto è stato il film più visto nei primi giorni di questa nuova ondata cinematografica, davanti al solito Cars, a Valerian, di cui parleremo fra poco, e all'Inganno di Sofia Coppola, che a mio modo di vedere è decisamente il film del weekend. Di tutto questo, dicevo, parleremo fra poco. Prima di tutto però ci sarà un film che ha un grande stile, potremmo dire così, si intitolerà Kingsman, ne parliamo fra poco. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova! Pantera.it col TH. Vi presenta La Rosa Purpurea. La Rosa Purpurea prosegue con i film della settimana, con i film da vedere in sala. Adesso entriamo un po' nel vivo dopo Glory. Prima però una prima parentesi così di magnanimità da parte nostra, no scherzo, i primi regali ai nostri ascoltatori, perché dal 5 ottobre esordisce al Teatro Nazionale di Milano Flashdance, il musical, ovviamente tratto dall'omonimo film. È un'edizione tutta nuova, molto molto curata, e allora noi vogliamo regalare a 5 coppie di nostri ascoltatori 2 biglietti per andare a vedere un'anteprima di questo musical al Teatro Nazionale di Milano, o il 29 settembre o il 1 ottobre. E allora scriveteci al nostro SMS 349-238-6666 specificando Flashdance e magari anche la data, quella poi magari ce la possiamo anche dire dopo. Comunque specificate Flashdance e potete andare in 5 coppie a vedere l'anteprima del musical al Teatro Nazionale di Milano il 29 settembre o il 1 ottobre. 349-238-6666 è il nostro SMS. Chiaramente ne parleremo poi la prossima settimana, avremo anche in studio probabilmente gli artisti, insomma sarà una bella puntata. A questo punto noi però andiamo ai film, perché dobbiamo parlare di un film molto stiloso che si intitola Kingsman. Exi, ho visto in te quello che un tempo qualcuno vide in me, qualcosa che non si può insegnare, le qualità di un Kingsman. Ma essere un Kingsman è più dell'abito che indossiamo o dell'arma che impugniamo. È essere disposti a sacrificarsi per un bene superiore. Spero che tu sia pronto per quello che sta per succedere. E noi incontriamo il nostro Kingsman, Boris Sollazzo. Ciao Boris! Quanto onore, Franco. Ti sei vestito con quelle giacche abbastanza fluorescenti della locandina del film? Beh, direi che il mio look è più vicino a quello di Channing Tatum, purtroppo, nel film. Lo sapevo. Ascolta, questo Kingsman è un Kingsman 2 in realtà, Il Cerchio d'Oro, il suo titolo, e ritorniamo in questa situazione di grande eleganza formale e di grande azione, diciamo, sostanziale. Assolutamente d'accordo, e devo dire, a differenza di tanti sequel, questo riesce benissimo, perché è più un secondo capitolo, che può sembrare una considerazione formalmente velleitaria, ma non è così, perché riprende quel tipo di racconto classico della spy story alla 007, se vogliamo, ma in chiave moderna e decisamente e consapevolmente molto più ironica. Qui semplicemente possiamo dire che è un Kingsman 2, questo Kingsman il cerchio d'oro, perché proprio non lascia ma raddoppia. Non c'è più solo la Kingsman, questa sartoria di gran lusso che produce agenti segreti, ma c'è anche la Statesman, che è una distilleria di superalcolici che arriva nel momento in cui la cellula della Kingsman viene attaccata da una super cattiva, ovvero una Julianne Moore che finalmente vediamo in altri contesti che da quelli di donne straordinariamente depresse, anche se splendidamente interpretate, che interpreta invece una sorta di cattivo re del mondo che vuole cambiare le sorti del proprio pianeta secondo una propria visione del bene collettivo, che insomma prevede come al solito una catastrofe totale per motivi ovviamente totalmente folli. Non è tanto importante la trama, anche se è ricercata, anche se è complessa, anche se è piena di visioni improbabili, di appunto follie narrative e visive, però sempre molto coerenti, ma è importante il carisma dei singoli attori. Penso a Colin Firth per esempio, ma penso anche a un Channing Tatum che spesso vediamo con gli occhi chiusi ma che funziona alla grandissima. Ed è importante soprattutto la scrittura di un film che ha nei dialoghi e nei rapporti interpersonali tra i vari personaggi la sua forza più grande, e anche poi nelle idee di narrazione che spesso possono sembrare bizzarre ma che sono estremamente efficaci. Alla fine esci dalla sala molto divertito, esci dalla sala con una grandissima voglia sia di bere superalcolici che di vestirti benissimo, e alla fine hai un ottimo film. Abbiamo iniziato questa categoria qualche settimana fa per il fine settimana, cioè quel film che ti puoi andare a vedere al sabato sera con la propria fidanzata, col proprio fidanzato, con i propri amici, in comitiva, perché ti diverti e ti diverti in maniera intelligente. Hanno in mente qualcosa di più grande. C'è questo cerchio d'oro che spunta fuori spesso. Impronte digitali rimosse, denti limati, tatuaggio in oro a 24 carati. Oh! Ora che dobbiamo fare? Seguiremo il protocollo Apocalisse. Molto americano. Cazzo, sì! E allora, questo era Kingsman, il cerchio d'oro, la seconda parte, il secondo capitolo, come ha detto Boris, di questa che sta diventando una piccola saga di alta sartoria e grande azione. E noi a questo punto continuiamo a regalarvi cose, perché qui non ci fermiamo più. Dopo i biglietti di Flashdance per il musical, andiamo alla nostra prima traccia del film misterioso. Abbiamo perso tutti qualcuno che amavamo. Non perdiamone altri, non permetteremo che accada, giusto? Giusto. È giusto. È giusto. È giusto. È giusto, è giusto. E vediamo se è giusto quello che ci scrivete alla Rosa Purpurea, a @radio24.it, il vostro nome, cognome, indirizzo, il titolo di questo film. Se l'avete già indovinato, già riconosciuto, più tardi, un'altra possibilità. Your stare makes me freeze, but I can't stay still. Those eyes keep me up longer than any other pill. And I know being together, we feel like forever. But now... La voce è veramente singolare in questa canzone di Cara Delevingne, I Feel Everything, tratta dalla colonna sonora di Valerian, il nuovo film di Luc Besson. Qui siamo alla fantascienza in pompa magna, quella insomma che ingombra tutto lo schermo. È un film, è un cinema sempre molto fisico, quello di Luc Besson, che con Clay Owen, appunto Cara Delevingne, nel cast insieme a Ethan Hawke, Rihanna, John Goodman, Rutger Hauer, c'è un po' di tutto dentro. Ci racconta questa città di Valerian e i mille pianeti. Benvenuti ad Alfa, la città dei mille pianeti. Dopo secoli di pace e prosperità, una forza ignota vuole distruggere tutto quello che abbiamo creato. Agenti Valerian e Lorelin, avete meno di 10 ore per trovare la minaccia ed eliminarla. Mettiamoci al lavoro. Mettiamoci al lavoro, Boris, perché anche qui c'è da fare, anche qui c'è un mondo che rischia di crollare, c'è qualcuno che vuol far saltare la pace, ci sono degli agenti segreti questa volta del futuro che hanno appunto i tratti di Valerian, Dane DeHaan e di Laureline Cara delle Vigne. Fantascienza un po' laccata, potremmo dire, quella di Luc Besson. Anche in questo caso le cose vanno così? Sì, cinema fisico, dicevi, aggiungo cinema estetico. Bisogna raccontare un po' la storia di Valerian, forse per capirlo, perché è un film che Luc Besson desiderava fare fin da ragazzo, fin da bambino, da quando si è appassionato ai fumetti da cui è tratto il film. Quando era a un passo dal raccontarlo, esce Avatar e lui, la sceneggiatura su cui lavorava da 2 anni e mezzo, la butta perché dice di fronte ad Avatar non avrebbe più senso farla. Migliora la tecnologia degli effetti speciali e visivi e decide di riprenderlo con la sua Mediacorp 10 anni dopo e lo porta avanti con un'ambizione straordinaria, perché parliamo di un film da 180 milioni di dollari di budget e alla fine della fiera da 400 milioni di investimento, promozione compresa. Un film che in Francia doveva fare 30 milioni di euro e che ne ha fatti solo 11, e il motivo è abbastanza semplice, che quel sogno da bambino lui lo ha girato come se fosse ancora bambino, cioè giocando con l'estetica in maniera meravigliosa, devo dire molto molto anche divertente e sorprendente. Penso a una delle scene iniziali, quando vediamo su diversi piani temporali e visivi tutti gli astronauti che hanno contribuito a costruire questa città da 17 milioni di abitanti, e sentiamo Space Oddity per intero raccontare questo momento, oppure quando arriva il momento di Rihanna. Ci sono dei momenti meravigliosi, ma il film è sostanzialmente un piccolo disastro, perché si diverte talmente tanto Besson a raccontare visivamente questo film di fantascienza che, come dicevi tu, riempie lo schermo, riempie letteralmente lo schermo con i suoi colori, con le sue scenografie, con le sue idee, da dimenticarsi di scriverlo. E così Dane DeHaan e Cara della Vigne, che forse non sono nemmeno troppo in parte, anche se si impegnano, si ritrovano in bocca delle battute assolutamente improbabili, già in un melodramma del presente, in un melodramma d'amore del presente, figuriamoci se messo in bocca a dei ragazzi del futuro, a dei giovani del futuro. E questo vale per tutto il film. La sceneggiatura non segue mai quello che è un gioco che sembra divertire, più si va avanti, solo il suo regista, solo colui che sta cercando di realizzare il proprio sogno, dimenticando che però il cinema deve far sognare gli spettatori, deve far sognare gli altri. Sarà molto complicato, a mio parere, anche se insomma l'Italia ha sempre amato come mercato Besson, riuscire ad andare almeno in pareggio in questa operazione, e questo potrebbe provocare anche dei disastri produttivi sulla Mediacorp, che invece da decenni riesce a fare molto nelle banlieue parigine. Noi ce lo auguriamo per i posti di lavoro, certo se dovessimo dire se lo merita diremmo assolutamente no. Dobbiamo parlare. Ai! Scusa. Se non mi aiutate a trovare Valerian, questa pallottola troverà voi. È per evitare queste situazioni che le nostre informazioni le dividiamo in 3. Uccida uno di noi e niente informazione. Sarebbe un vero peccato. Già. Ok, ma dovrete farmi credito perché non ho molto con me. Oh, che fastidio. Se il comandante fosse qui, userebbe il trasmutatore per pagarci. Invece è stato rapito. Proprio perché ha con sé il trasmutatore. Come avete questa informazione? Gli umani funzionano così. Mm-hmm. Sono così prevedibili. Non conoscete le donne? E allora questa era un'altra clip appunto di Valerian al cinema. Adesso linea alla regia, torniamo fra poco e ci avviciniamo al fine della settimana, all'Inganno di Sofia Coppola, passando per un altro bel film italiano, L'Equilibrio di Vincenzo Marra, fra poco. Ciao chef, come stai? Ciao Pier, bene, bene, grazie. Senti, cosa mi prepari? Io pensavo nuvole di granchio, una sensazione di finferno, magari con un'assenza di rododendro al gratin. No, sei troppo futurista, dobbiamo essere più pop. E parla come mangi. Ma no, mangia come parli. Mangia come parli, di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Il sabato alle 9, su Radio 24. Ma la sensazione di finferno! Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. I campioni dello sport, le loro imprese, le loro storie, i loro segreti. Scopriteli a Olimpia, la città dello sport, quest'anno con un ospite d'eccezione. Sono Stefano Tirelli, seguiteci qui a Olimpia, alla scoperta delle menti dei campioni. Sono Dario Ricci. Vi aspetta Olimpia, miti e verità dello sport. Ogni domenica alle 21, qui su Radio 24. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora qua, La Rosa Purpurea prosegue con un film italiano che arriva in sala, diretto da Vincenzo Marra, autore che si conferma, diciamo, capace di una mano molto solida quando le tinte si fanno molto nere, molto cupe e con grandi contenuti. Film che è passato dalle giornate degli autori alla recente mostra del cinema di Venezia, si intitola L'equilibrio, e racconta la storia di un sacerdote che torna dalle missioni in Africa e arriva in un piccolo comune del napoletano, chiamato da un parroco del quartiere, Don Antonio, che è stato un uomo di grande carisma, un uomo impegnato nella battaglia contro i rifiuti, le scorie tossiche, avete presente la Terra dei Fuochi, eccetera eccetera, e quindi il senso è quello di provare a cercare un erede di questa storia. Vi voglio presentare Don Giuseppe, che come sapete tra qualche giorno mi sostituirà. Vi dovete stare vicini, come lui starà vicino a voi, mi raccomando. Certo, così giovane hanno mandato in un posto come questo. Hanno interrato rifiuti tossici di tutti i tipi, per questo scempio che la nostra gente sta morendo prima del tempo. Ma che vita è questa? In questo posto purtroppo abbiamo delle priorità, lo capite, sì o no? Tu sai che qua la situazione è complicata, quindi mantieni l'equilibrio. Mantenere l'equilibrio, che è il titolo del film, Boris, una sorta di storia sul senso di un'eredità etica, di quello che si possono trasmettere due persone, potrebbero essere anche un padre e un figlio, un fratello maggiore e un fratello minore, di quando a passare non è qualcosa di solido e di pratico e di concreto, ma è qualcosa che forse vale molto molto di più che appunto la dignità. Eh sì, è un'eredità etica, religiosa, spirituale, fisica e anche legale, quella che racconta l'equilibrio. Siamo, anche se non lo dicono mai, a Caivano, siamo in una delle periferie del napoletano più drammaticamente contese tra droga, criminalità e tragedie sociali, disparità sociali. Ci sono grandissimi attori, parlo anche dei comprimari e non solo, di Mimmo Borrelli, Don Giuseppe e Roberto del Gaudio, Don Antonio, che raccontano le due facce di una stessa medaglia, una medaglia che è appunto un simbolo sacro ma anche estremamente profano, di uomini di chiesa che fanno battaglie sulla propria terra, e c'è chi magari si accontenta di fare il possibile e chi pretende di fare l'impossibile anche a prezzi troppo alti da pagare per una singola persona. È la storia di un martirio, il martirio di un uomo che vede la sua spiritualità sgretolarsi e che Marra traduce in una sofferenza del corpo straordinaria. È davvero il cinema nel suo senso politico e artistico più profondo e più alto, e davvero Vincenzo Marra in questo momento storico ha fatto un film necessario per raccontare cosa siamo diventati e per raccontare a tutti noi che in ogni singolo giorno abbiamo delle responsabilità precise verso tutta la società. È uno dei film più belli che abbiamo visto negli ultimi anni da parte del cinema italiano, e deve essere visto anche per crescere come persone, non solo come spettatori. Ma quando si trova in tuo quartiere mio, mi ha creato solo un biglietto a randella. Ma perché non fate un'indagine? Non alzi la voce. Prove di quello che dici, non ce ne sono. Ritrova la moderazione, l'equilibrio. So che puoi farlo. Dovete fare solo quello che dovete fare. Fate sacerdote e basta. Dani, ma se rimango in chiesa a pregare, sta gente poco fine fa. Il grande interrogativo dell'equilibrio di Vincenzo Marra, un uomo veramente solo contro tutti, questo sacerdote di frontiera. E noi andiamo invece avanti con il nostro gioco, con la seconda traccia del film misterioso di oggi. Tutti questi prodigi dell'arte, dell'ingegno umano, tutti assolutamente insignificanti di fronte all'unico quesito importante: da dove veniamo noi? E beh, la prende da lontano, diciamo, questa clip, ma se avete indovinato di che film si tratta, scrivetecelo alla Rosa Purpurea, @radio24.it, con il vostro indirizzo, con il titolo del film. Due Blu-ray vi aspettano per chi per primo indovinerà il film misterioso di oggi. When the blackbird in the spring on the willow tree sat and rocked, I heard him sing, singing orally. Dalla colonna sonora dell'Inganno, The Gill, questo è il film di Sofia Coppola, passato al Festival di Cannes nel maggio scorso e finalmente, dico finalmente, nelle sale cinematografiche italiane, perché anticipo il giudizio, si tratta davvero di un gran bel film, una bella prova di regia ancora una volta da parte di Sofia Coppola, qui molto più quadrata rispetto a qualche sbavatura e qualche volo pindarico di troppo dei suoi film, anche di qualche piccola inconsistenza dei suoi film, di alcuni suoi film precedenti, mica di tutti ovviamente, perché Sofia Coppola è una delle registe da seguire assolutamente nel panorama cinematografico mondiale. Gran cast di attori e di attrici, soprattutto Elle Fanning, Kirsten Dunst, Nicole Kidman e un Colin Farrell che diventa l'oggetto del desiderio sin dal momento in cui viene ritrovato sanguinante e quasi morente, direi, nelle foreste della Virginia durante la guerra di secessione americana. Miss Martha! Miss Martha! Ragazze, aiutatemi tutte. Presto, sto sanguinando. Prego perché il Signore decida di far guarire il soldato ferito. Preghiamo perché tu protegga la nostra scuola e protegga noi dal male durante la notte. Amen. Sembra che la presenza del soldato abbia degli effetti. Ecco, la presenza di questo soldato, guerra di secessione, siamo in territorio sudista dove c'è questa specie di collegio femminile per giovani orfane o comunque che hanno perso contatti con le proprie famiglie dilaniate dalla guerra. Queste giovani donne vengono istituite da quella che è l'istitutrice, Miss Martha, appunto Nicole Kidman, un po' tutta ad un pezzo, che le fa vivere nella maniera più degna e decorosa per una giovane donna dell'epoca, quasi che fuori non ci fosse l'inferno, e loro continuano con le loro regole, i loro orari, i loro pasti, le loro preghiere, le lezioni di francese e di pianoforte, finché in questo collegio arriva un soldato ferito, peraltro nordista, appunto Colin Farrell, che come dire porta in subbuglio assoluto, soprattutto a livello ormonale, potremmo dire, in questa sorta di convento nel quale queste suore laiche si sono trincerate dietro i loro riti quotidiani. E pian pianino questo gioco, che prima diventa che prima è un gioco di seduzione, prima è un gioco di conquista, diventa una sorta di gioco al massacro. Io non ho mai incontrato una bellezza così delicata come la vostra. Ditemi solo una cosa. Signorina Monroe, non temete. Ce l'avete un desiderio? Se poteste avere qualunque cosa al mondo, che cosa sarebbe? Qualunque cosa? Sì, qualunque. Io vorrei essere portata lontano da qui. Tutti hanno i propri desideri, tutte li confessano al soldato, e quando però le preferenze del soldato sembrano andare in una direzione, le altre chiaramente si coalizzano. Boris, c'era un film, il film d'esordio di Sofia Coppola, Il giardino delle vergini suicide. Qui le vergini sono tutt'altro che suicide, anzi diventano, come dire, piuttosto aggressive. Sì, sono assedate di vita queste vergini, perché di fatto non l'hanno mai percorsa, perché quell'orfanotrofio le ha protette ma le ha anche isolate emotivamente e fisicamente. Io credo che nell'Inganno ci sia tutto il meglio e tutto il peggio del cinema di Sofia Coppola, e davvero lo puoi dividere in due. La parte iniziale, in cui arriva questo Colin Farrell ambiguo, assetato anche lui di una vita che ha rischiato di perdere, anche guidato da istinti sostanzialmente primordiali, ma anche da una cultura e da una raffinatezza che non è quella dell'educazione di queste educande, ma quella che gli ha insegnato la vita, e la vita che si fa strada nell'animo e nel corpo di queste donne, fino a che Sofia Coppola, come anche negli altri film, percorre questa strada del non detto, questa strada di un corpo che dice molto più delle parole, delle immagini che dicono molto più della sceneggiatura. Noi ci troviamo di fronte a un film notevole in cui, come dicevi tu, il cast sa essere davvero straordinario, sia come visi sia come atteggiamento. Penso appunto alla Fanning, penso alla Kidman, ma penso a tutti gli attori che riescano a dare il meglio. Quando invece Sofia Coppola, come spesso le accade, comincia a esplicare ciò che sta per avvenire, comincia a far diventare tutto più chiaro, tutto più limpido delle dinamiche che si stanno creando, lì c'è la regista più banale di altri film, che vuole essere assertiva, che vuole spiegare, che non si accontenta di averci portato non tanto nel lato oscuro del nostro animo, ma in quello più grigio, in quello dove l'irrazionalità comanda. Quando cerca di tirare le fila, allora il film comincia a sgretolarsi, proprio perché quella tensione emotiva e narrativa e anche visiva non riesce più a trovare la potenza delle prime scene, ma solo, diciamo, un tentativo di arrivare abbastanza stanco al finale. Non si capisce anche se sia un problema di sceneggiatore o semplicemente veramente di tenuta emotiva anche della regista stessa. Detto questo, sicuramente è molto interessante, anche perché una regista donna come Sofia Coppola riesce ad indagare l'animo femminile, devo dire più di quello maschile, abbastanza banalizzato soprattutto nella seconda parte di quello rispetto a quello di Colin Farrell, però sicuramente l'interesse dell'inganno non può essere negato. C'è una parte di me che pensa che sia un'occasione persa, ma sicuramente è un film che va visto per la qualità visiva e narrativa, soprattutto della prima parte. Ricordiamo che tra l'altro c'è un padre nobile di questo film, che era La notte brava del soldato Jonathan di Don Siegel, con Clint Eastwood nei panni appunto del soldato ferito. Parliamo di un film del 1971, è una sorta di remake, anche se ci sono rivisitazioni chiaramente d'autore, però insomma la storia è quella ed è assolutamente trattata in quella maniera. Grazie Boris, ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora noi andiamo a dare la linea alla regia, alla viabilità, per sentire come vanno le cose sulle strade, e poi ripartiamo da Mangia Cinema, il festival che mette insieme il cinema e il gusto a Salso Maggiore e che quest'anno è all'insegna di Federico Fellini. La rosa purpurea. E allora era l'invito a bere più latte, è diventata una cosa proverbiale: il latte fa bene, il latte conviene. Perché ve l'abbiamo fatto sentire qua? Perché questa clip, questa canzoncina, questo jingle è tratto da un episodio di Boccaccio 70 targato Federico Fellini. E Federico Fellini, nel suo connubio col cibo, in questo caso con un alimento base come il latte, sarà protagonista di Mangia Cinema, la festa del cibo d'autore del cinema goloso, che parte proprio nel prossimo fine settimana, il 27 settembre, e fino al 4 ottobre a Salso Maggiore avrà davvero il suo compimento. Cibo e cinema si incontrano per discutere, per vedere dei buoni film, per capire quali sono le relazioni fra le due arti, perché di questo si tratta, e anche, ovviamente, mi viene da dire quasi soprattutto, per mangiare, perché chiaramente il Festival Mangia Cinema ha nella prima parola mangia, una delle sue anime più corpose. E con noi al telefono Gianluigi Negri, che ne è direttore ma soprattutto inventore. Ciao Gianluigi, ben ritrovato. Ciao Franco, grazie e ciao a tutti. Allora, Salso Maggiore si trasforma ancora una volta nella capitale dell'incontro fra il cinema e il gusto, fra il cinema e il cibo, con un padrino d'eccezione quest'anno che è Federico Fellini. Hai detto bene Franco, l'omaggio di quest'anno, quarta edizione, quello a Federico Fellini, dopo Sordi lo scorso anno, dopo Totò 2015 e dopo la prima edizione dedicata a Ugo Tognazzi, per cui insomma celebreremo il maestro di Rimini come facciamo noi, guardando e gustando il cinema insieme al nostro pubblico, con tanti spettacoli, con tantissime degustazioni gratuite, perché Mangia Cinema è la festa del cibo d'autore, del cinema goloso, e proprio grazie a questa festa Salso Maggiore da 4 anni fa rima con cibo d'autore. Senti, ci saranno Gianluigi davvero tanti ospiti di grandissimo livello, tra l'altro anche grandi attori, mi viene in mente prima di tutti Milena Vukotic, che hanno lavorato con Federico Fellini, ma insomma non è solo Milena Vukotic il cuore pulsante di queste giornate nelle quali a Salso Maggiore si va a incontrare un bel pezzo della storia del cinema italiano. Abbiamo tanti ospiti, hai detto bene Franco. Intanto Milena Vukotic è l'ospite d'apertura mercoledì 27 settembre, ricorderà non solo Federico Fellini, suo grande amico, lei recitò con Fellini, restò per Fellini in Giulietta degli Spiriti, è un altro episodio che adesso non svelo, lo svelo perché nel programma è Toby Dammit di Tre passi nel delirio e lo proietteremo. Susie Bledi verrà da noi mercoledì 4 ottobre ad esempio a presentare La voce della luna. Forse non tutti ricordano che la parte più rilevante femminile all'interno della voce della luna fu affidata da Federico Fellini proprio a Susie Bledi. Susie Bledi, ricorderà il maestro, e quella sua collaborazione nel film interpretato da Paolo Villaggio e Roberto Benigni. Ultima ma non meno importante, la nipote di Federico Fellini, Francesca Fabri Fellini, che è autrice anche di un gustoso libro, A tavola con Fellini, al quale ci ispireremo in parte per la cena di gala di giovedì 28 settembre dedicata al maestro di Rimini. Pronto amore, sono Angela. Senti, io sono a Zurigo. Guarda, qui c'è una nebbia che non ti dico, non so se riusciremo a partire. No, non aspettarmi. No, le previsioni non sono mica buone. Ragioniere, sicuro che non le spiace fermarsi stasera? No, non avevo impegni. Grazie, sa, è carnevale, altrimenti litigavo con mia moglie. La mia l'ho abituata. Quando rientro tardi non mi dice niente. E allora, avete sentito la voce di Maurizio Nichetti in questa clip da Stefano Quante Storie? Maurizio Nichetti sarà tra l'altro, come ha detto Gianluigi, fra i protagonisti di Mangia Cinema 2017 con una serata il 30 settembre, un'intervista pubblica che tra l'altro condurrò io, quindi siete tutti invitati a maggior ragione per trovarci, vederci, salutarci e sentire l'aneddotica interminabile di Maurizio, che ha appena scritto un libro autobiografico per Bietti Editore. Allora, siccome Mangia Cinema e Rosa Purpurea sono insieme dall'inizio, anche questa vogliamo mandare due nostri ascoltatori alla cena di gala del 28 settembre, di giovedì 28 settembre alle Terme Baistrocchi, e dal 29 al 30 due notti in bed and breakfast per una coppia, weekend goloso e cinematografico per un'altra coppia di nostri ascoltatori, sempre alle Terme Baistrocchi. E allora, i primi nostri ascoltatori che ci scriveranno un sms al 349-238-6666 specificando semplicemente weekend o cena, così noi sappiamo se volete andare alla cena di giovedì 28 o al weekend di venerdì 29 e sabato 30. 238-6666 349 il prefisso, sms cena o weekend, verrete ricontattati dalla nostra segreteria. I primi ascoltatori saranno premiati con la partecipazione a Mangia Cinema insieme alla Rosa Purpurea. A questo punto non ci resta che salutarci. Ciao Gianluigi Negri, grazie, ci vediamo a Salso Maggiore. Grazie Franco, ciao a tutti. E questo allora per quel che concerne Mangia Cinema 2017. Noi saremo lì e aspettiamo i vincitori del nostro weekend e della nostra cena di gala. Ora non ci resta che guardare la TV, nel senso che vogliamo segnalarvi e consigliarvi i film migliori da vedere in casa, le nostre visioni domestiche, cominciando col riascoltare una delle tracce che avevamo seminato 7 giorni fa. Controlliamo il DNA della nostra progenie germinandola in capsule riproduttive. Io preferisco procreare alla vecchia maniera. Bene. Magari potrei darmi una lezione di storia. Si trattava dei Guardiani della Galassia volume 2, il film con cui abbiamo giocato la scorsa settimana, e i vincitori, i due nostri ascoltatori, che fra i tanti devo dire che hanno partecipato, hanno indovinato per primi, sono Rosalia Buccheri o Buccheri di Vicenza e Michael Gross, roba internazionale almeno dal nome, di Genova. Sono i nostri due ascoltatori che riceveranno il Blu-ray dei Guardiani della Galassia volume 2, che ci facciamo raccontare in tutti i suoi dettagli da Giulio San Giorgio di Film TV. Ciao Giulio. Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, al ritmo di una nuova raccolta di brani musicali, il film racconta le nuove avventure dei Guardiani della Galassia, che devono combattere per mantenere unita la propria, diciamo, famiglia, mentre sono alle prese con il mistero che avvolge le vere origini di uno di loro. Si allenano con vecchi nemici e contano sull'aiuto di nuovi personaggi dell'universo cinematografico Marvel in continua espansione. È un film che è veramente un tripudio di meta-ironia, ammiccamenti nostalgici, un florilegio di cultura pop, un film di supereroi alla fine veramente molto sui generis, diretto da un regista che ha portato nel mondo Marvel, nel mondo mainstream, il fascino assolutamente degenere del cinema troma, cioè il trash politico underground americano. È ottimo disco sia nel senso del Blu-ray ma anche come album musicale a suo modo, con ricchi contenuti extra, making of dei Guardiani della Galassia, video musicale, Muriel con tutti i gag, scene eliminate, commento audio di James Gunn e una misteriosa introduzione visionaria del regista. Effettivamente Giulio, mi fai pensare al cinema della troma, e hai proprio ragione. mi è venuto in mente Toxic Avenger quando parlavi di questi film, chiaramente è diventato mainstream con I Guardiani della Galassia. Andiamo avanti, Giulio, perché ci sono un paio di spunti veramente cinefili che abbiamo pescato dai palinsesti in chiaro della prossima settimana, cominciando proprio da domenica 24 settembre, quando su Rai 3 all'1:50 di notte, e sono visioni notturne, ve lo dico, andrà in onda L'Uomo di Londra di Bellatar. Sì, contentissimo delle tue scelte di questa settimana. Appunto, siamo a luna di notte e siamo comunque di notte, dove Malloy, un manovratore di ferrovia portuale, assiste a un omicidio. Dopo aver rubato la valigia dell'uomo ucciso, deve però districarsi tra le indagini della polizia e le ricerche della refurtiva da parte dell'assassino, che è appunto quest'uomo di Londra, e i rapporti veramente complesse con la moglie e la figlia adolescente. Bellatar è uno dei giganti del cinema contemporaneo, ora ritiratosi, adatta in 132 minuti e 30 sole inquadrature L'Uomo di Londra di George Simenon, e diciamo che astrae la parabola determinista, chiusa, implacabile del noir nel suo massimo nitore, perché tanto più il suo cinema si fa rigoroso, meccanico, imparziale, tanto più è ineluttabile la tragedia, questo inferno silenzioso e placido in cui l'uomo, il suo protagonista, finisce per scomparire. E allora, questo è L'Uomo di Londra di Bellatar, Rai 3, 1:50 di notte, domenica 24 settembre. Venerdì 29, sempre di notte, su Rete 4 alle 2:05, Non si sevizia un paperino di Lucio Fulci. Sì, siamo in un paesino lucano e tre bimbi vengono crudelmente uccisi. Un giornalista indaga con i carabinieri, i sospetti cadono prima su una signora, poi su una fattucchiera, entrambe risultano innocenti, ma la seconda, una volta che viene rilasciata, viene massacrata dai genitori delle piccole vittime. È sicuramente uno dei migliori film di Lucio Fulci, terrorista dei generi del cinema italiano, dimenticato forse in vita e mitizzato dopo la morte. È un film sulla società come luogo, come concrezione di potere, di livore, di tabù e di inibizioni. È un film ancora a suo modo molto autoriale, critico, prima della fuga del regista nel genere a mano armata e folle degli anni Ottanta. E questo è Non si sevizia un paperino, un'altra visione da non perdere, venerdì 29, Rete 4, alle 2:05 di notte. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. La prossima settimana ci sentiamo anche con tutti voi dal nostro Mangia Cinema, dove saremo nel weekend, a tutto il cinema che c'è come sempre sul grande schermo e sul piccolo qui da Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisti.